Benvenuti su Radio Bawalla. Oggi è giovedì, 11 marzo, e siamo in una puntata super speciale, anche se leggermente in ritardo, da Biennale Democrazia. Avevamo detto che avremmo iniziato alle 18, ci sono stati un pochino di problemi, sono le 18:18, ma l'importante è che siamo tutti qui e siamo pronti a iniziare. Vi presento innanzitutto i miei due nuovi compagni di viaggio. Io sono Armando, per chi non mi avesse riconosciuto. I miei amici sono Marco del Performing Media Lab, Eros di Acmos del Performing Media Lab. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, ciao. Diteci un pochino innanzitutto chi siete, cosa fate. Ma innanzitutto noi siamo qua come Acmos perché da quando è nata Biennale Democrazia gestiamo in particolare il lavoro con i giovani, e in questa Biennale in particolare siamo qui facendo tutta una serie di animazioni di piazza in Piazza Carignano. Perfetto, come questa di oggi per esempio. Ma allora una domanda nasce spontanea per chi non è proprio avvezzo dell'argomento: cos'è Biennale Democrazia? Se ci vuoi presentare un pochino. Biennale Democrazia è un laboratorio permanente di riflessione democratica che è nato nel 2009, è nato come evento di lancio del 150enario dell'Unità d'Italia, ma a partire dal 2009 abbiamo deciso di rendere permanente questa biennale, questo appuntamento che c'è ogni due anni, di riflessione sulla democrazia. I temi sono diversi, quest'anno il tema di Biennale Democrazia è utopico possibile, con il punto di domanda. Ah, quindi è una domanda che ci si pone. È una domanda. E che si tenterà in questi quattro giorni, ricordiamo, di dipanare, di arrivare un pochino a una... Sì, Biennale Democrazia è iniziata ieri 10 aprile, finirà domenica 14 con delle letture di Benny, tra l'altro. E sì, la domanda di fondo è questa: come la democrazia non può esistere senza utopia. Però la questione è come fare a far rendere quanto più reali possibili le utopie che ci fanno credere in una democrazia sempre migliore. Ah, interessantissimo allora. Sì. Beh, allora, innanzitutto diciamo anche all'interno di questa Biennale Democrazia di cui abbiamo parlato, se vogliamo un pochino descrivere le condizioni in cui siamo, Eros, magari tu. Ma... siamo qui da Piazza Carignano, abbiamo sì, detto. Siamo in Piazza Carignano da questo pomeriggio. Il tempo non c'è stato, non era stato dalla nostra parte, e abbiamo montato qua davanti un furgoncino per fare la diretta radio. Erano previsti anche concerti e animazioni di piazza che purtroppo non siamo riusciti a fare. Speriamo nelle prossime giornate di riuscire a far tutto. E niente. Va bene, ma direi che comunque è molto... No, non so se vi è mai capitato, ma io non ho mai fatto diretta da dentro un camioncino. Siamo accanto al camioncino di Sky. All'inizio c'è stato un po' di complesso di inferiorità, ma in fondo Radio Bawalla è Radio Bawalla, insomma. Certo. Voi, i nostri ascoltatori ci conoscono già, per quelli che in più che fossero arrivati oggi. Radio Bawalla è un'idea di alcuni ragazzi di Ivrea, perdonatemi la rima non voluta. È una radio, una web radio anzi, che si ascolta sul sito dal quale la state ascoltando, www.radioabawalla.net, una radio di musica Creative Commons, e cioè con licenze particolari. Creative Commons è un progetto parallelo rispetto a quello del copyright, per cui l'autore di un contenuto, che può essere audio, può essere video, può essere anche scritto, si riserva soltanto alcuni diritti. E quindi noi abbiamo pensato di fare questo e di lavorare sui programmi open source, ed è nata Radio Bawalla. E adesso questa collaborazione, che ci fa moltissimo piacere, è con voi ragazzi del Performing Media Lab. Ah certo, tra l'altro non so se sicuramente non avrete sentito, ma il camion di Sky se n'è appena andato via, perché evidentemente sentono loro il complesso di inferiorità nei nostri esatto, li abbiamo fatti fuggire. Allora io direi che dopo queste presentazioni possiamo lanciare il primo pezzo. Si tratta di Olga Zilkova, che con Tonight. Tonight, Zilkova con Tonight questa sera, e noi invece questo pomeriggio siamo ancora qui da Piazza Carignano ed è arrivato un ospite. Lascio subito la parola a Marco e al nostro ospite. Noi siamo qua con Elisa Ferrero, vicepresidente di ACMOS, responsabile del centro studi di ACMOS che organizza Biennale Democrazia. Ciao. Elisa, ciao. Raccontaci qual è stato il modo con cui ACMOS negli anni, dal 2009 a oggi, ha coinvolto i giovani in Biennale Democrazia. Ok, beh, ciao a tutti. Sì, ACMOS collabora con Biennale Democrazia fin dall'inizio, quindi fin dal 2009. L'idea è sempre stata quella di cercare di coinvolgere dei giovani durante gli incontri della Biennale, ma anche prima. Cioè, l'idea è quella per cui non basta deportare dei giovani agli incontri, metterli lì ad aspettare e ad ascoltare, ma bisogna prepararli prima, cercare di costruire con loro una riflessione, una discussione collettiva, in modo che siano preparati e possano essere loro protagonisti degli incontri. E infatti negli anni abbiamo inventato modalità diverse di partecipazione, dall'adozione dell'incontro, cioè delle classi che decidono di scegliere un incontro, di preparare delle domande, magari di incontrare o inviare mail ai relatori già prima, e che poi durante gli incontri di biennale si mettano lì in prima fila e si alzino e facciano proprio la domanda, con ciò incontrando direttamente i relatori. Ci sono state anche altre modalità, dall'incontro, dall'organizzazione stessa di alcuni incontri dedicati proprio ai temi che interessano e coinvolgono i ragazzi, a appunto incontri particolari tipo feste piuttosto che incontri con giovani esponenti del mondo della democrazia e della cultura torinese italiana. Ma ci parli un po' dei campus di Biennale Democrazia che si sono susseguiti negli anni? Sì, beh, ecco, questa è un po' la novità di quest'anno, cioè purtroppo non siamo riusciti quest'anno a organizzarlo, però in passato abbiamo sempre cercato di far sì che l'esperienza di Biennale fosse per noi giovani, per i ragazzi delle scuole, un'esperienza anche di comunità, nel senso di vita insieme. E quindi siamo stati nel 2009 accampati con le tende nei prati, nei campi attorno all'Hiroshima, a Torino. E nel 2011 invece siamo stati ospitati nella caserma di Via Asti, sempre a Torino. E l'idea era proprio quella di condividere con i ragazzi tutta l'esperienza di Biennale, quindi le colazioni insieme, gli incontri con percorsi, con animatori che portavano in giro i ragazzi, anche la visita di Torino, la visita ad alcuni luoghi significativi, come la mostra sui 150 anni dell'Unità d'Italia, ma anche, perché no, le feste, gli aperitivi insieme, i concerti fatti proprio durante il campus. Quest'anno purtroppo è andata diversamente, però ci stiamo lavorando, diciamo che abbiamo cercato comunque di ricreare un ambiente simile proprio in piazza, come raccontava prima Eros, facendo animazioni, mettendo poltrone e sagome di personaggi più o meno noti del mondo della democrazia. Un salotto berlinese open space, esatto, in pratica, per tutti i giovani che vogliono stare sia fuori che dentro il Teatro Carignano. Ma cosa ci raccontaci un po' quali sono gli eventi peculiari quest'anno che coinvolgono i giovani? Sì, allora intanto il tema di quest'anno è l'utopia. Forse non l'abbiamo ancora detto, noi abbiamo deciso comunque con alcuni ragazzi, alcuni soprattutto educatori, di ritrovarci, vivere ancora questa dimensione comunitaria, e noi abbiamo deciso di chiamare il nostro piccolo campus utopico possibile col punto esclamativo, proprio a sottolineare la nostra voglia di rendere concrete queste utopie. E questo è stato un po' il tema anche di lavoro con i ragazzi durante l'anno, nel senso che noi abbiamo incontrato le scuole di Torino, della provincia, parecchie classi che hanno con noi ragionato proprio su questi temi, dai supereroi, dall'utopia della fantascienza, quindi il tema dei supereroi piuttosto che della robotica, al tema più della democrazia e della partecipazione, e con loro abbiamo proprio ragionato su questo nesso tra utopia e possibilità, e sono venute fuori delle cose molto carine che non vi anticipo, perché le potrete sicuramente conoscere se verrete sabato mattina a vedere l'incontro, in cui ci saranno due professori, c'è cioè un professore universitario che si chiama Bianchini, che con noi ha collaborato ragionando proprio di utopia dell'educazione, e un giovane scrittore torinese, Baiani. Quindi saremo lì con i giovani delle scuole e vi aspettiamo chiaramente. Ti posso fare un'ultima domanda? Perché avete pensato proprio quest'anno all'utopia? Cioè, perché è venuto fuori proprio quest'anno? Sì, allora, detto che il tema lo sceglie direttamente il comitato scientifico della Biennale, quindi in particolare Gustavo Zagrebeschi e tutto il comitato, che stamattina ha fatto l'intervento proprio per spiegare questo. In generale, sicuramente una riflessione che possiamo fare è che il tema dell'utopia, che è un tema molto lontano dai ragazzi, da un po' la nostra sensibilità, nel senso che è anche una parola, un concetto un po' lontano, un po' forse datato, in realtà richiama molto all'idea del sogno collettivo, che è un tema che è molto difficile, possiamo dircelo, certo, nel senso che purtroppo in pochi riconoscono la possibilità che ci sia un'utopia positiva per il futuro, spesso si tende un po' a vedere il lato negativo, però questa è proprio una delle possibilità di riflessione, cioè quale futuro ci immaginiamo insieme o da soli, quali sono le varie sfaccettature. Qui si parlerà durante la Biennale, dall'Africa e tutti i suoi problemi, al tema dei consumi, al tema di internet come utopia del futuro. Quindi credo che sia anche un bel modo per provare a dirci insieme che un futuro possiamo sognarlo, e possiamo sognarlo insieme tra giovani, adulti e più o meno esperti di campi molto diversi. Certo, certo. Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo per esserci passata a trovare. Ti invitiamo naturalmente a sentire Radio Bawalla, certo, non appena potrai. E direi che lanciamo il prossimo brano del gruppo italiano Le Millionaire Blonde con Andrea si sposa. Che c'è di là, ed ecco cosa mi dirai, non è successo, giuro mai, non sono stato con lei, lo sai. E allora guarda, persino Giacomo lo sa, lo chiamo e sento che non mi va di dire tutte novità. Andrea si sposa con quella che ha conosciuto al bar e restare seduta qua. Piove fuori e ormai sono quasi già le sei. Magari lei ti massacrerà. Però che strano poco fa non esser più quella cui sorridevi felice al bar. E come stavo seduta. Queste erano le Millionaire Blonde con Andrea si sposa. Tra noi non c'è nessun Andrea, almeno qui immediatamente. Siamo ancora no. Armando, Marco. Marco Antonio. Marco... Per essere precisi. Abbiamo Eros e poi abbiamo il nostro Marco come tecnico che conoscete già. Allora, è stato molto interessante innanzitutto l'intervento di Elisa Ferrero. Però io direi che siamo a giovedì. La Biennale Democrazia è iniziata ieri, quindi non so se vogliamo fare un excursus su quello che è successo ieri. Sì, ieri la Biennale Democrazia è iniziata in modo molto forte perché abbiamo avuto innanzitutto a Reggio l'inaugurazione con la Presidente della Camera, la Boldrini, e fuori da Reggio una manifestazione di contestazione da parte di tutta una serie di rifugiati politici che hanno occupato alcuni palazzi ad oggi vuoti, o meglio, prima che li occupassero, del MOI, ovvero degli ex mercati generali di via Giordano Bruno. L'incontro è stato molto bello anche perché la Boldrini, prima di fare la propria relazione durante la Biennale Democrazia, ha deciso di incontrare i delegati dei rifugiati. Io farei mandare il pezzo di uno stralcio di un intervento della Boldrini. Forse è anche il frutto delle molte, molte silenziose e tenaci utopie a cui ho cercato di dare voce. Per più di 20 anni ho fatto questo, dal diritto degli ultimi e dei perseguitati di non essere per sempre ultimi e vittime, alla fame di speranza e di vita di chi si è messo in viaggio senza sapere se mai sarebbe arrivato. Penso al viaggio di centinaia, di migliaia di migranti e rifugiati a cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e altre organizzazioni provano ogni giorno a restituire dignità e futuro. Tempo che non è affatto equo. Nel mondo l'1% degli uomini possiede il 40% di tutte le risorse del pianeta. Se la politica non assume su di sé la sfida di curare queste ferite di civiltà, se non saremo capaci di affrontare l'utopia urgente e possibile di un paese e di un mondo più equi, di quale buona politica staremo parlando? La questo era un intervento. Questo era un intervento della Boldrini, è stato anche importante, bellissimo, molto commovente il passaggio, secondo me, che la Boldrini ha fatto riguardo la coppia di suicidi nelle Marche. Ha detto una cosa bellissima, ha detto che in questa società ci si vergogna della povertà, è un'utopia smettere di vergognarsi di essere poveri. Dopo la Boldrini, una fila lunghissima si è messa in coda sempre davanti al Regio per assistere a uno spettacolo teatrale tributo a Giorgio Gaber, ad opera di molti artisti, tra cui Paola Turci e Enzo Iacchetti. E con il mercoledì abbiamo chiuso il palinsesto di Biennale. Sì, beh, direi che è stata un'apertura col botto. Ah sì, adesso in questi giorni sicuramente... E potete, direi, per accertarvene, leggere il programma sul sito di Biennale Democrazia. In questi giorni sicuramente riusciremo a mantenere questo tenore. Sì, il sito, tra l'altro, di Biennale Democrazia è biennaledemocrazia.it, mentre il sito dedicato ai percorsi giovanili di cui ci ha parlato molto bene Elisa è giovaniscuole.biennaledemocrazia.it. Va bene, allora io direi che prima di una canzone lanciamo una cosa molto particolare. Abbiamo detto che il tema di Biennale Democrazia è l'utopia, quindi utopico, possibile, e noi lanciamo uno spot utopico, una specie di... Beh, innanzitutto una cosa molto rara per voi ascoltatori di Radio Bawalla, perché sapete che noi di pubblicità non ne abbiamo, ma questa è una pubblicità che vogliamo assolutamente avere, lo spot utopico. Lo lanciamo e dopo questo ci sentiamo Paul Clason con Back in the Day. Ho la verifica di matematica e oggi ho tutto il pomeriggio libero. Cosa faccio? Studio o gioco a PES? Beh, magari gioco a PES. Dai, una partitina sola a PES. Vabbè, ma dai, una partitina sola a PES. Ok, va bene, studio. L'improduttività ti rende improduttivo? Yeah. bentornati su Radio Bawalla. Siamo sempre in diretta da Piazza Carignano, però ci sono da fare due piccole errata corrige. Allora, innanzitutto abbiamo mandato il brano, era Juice Big City 123 anziché Paul Clayson Back in the Day, come avevamo detto, e soprattutto ci scusiamo, lo spot è venuto un pochino tagliato, avrete sicuramente occasione di risentirlo o oggi stesso oppure più probabilmente domani o anche sabato, perché vi ricordo che anche domani e sabato siamo in diretta sempre dalle ore 18 alle circa 19:30, quando poi ci sarà un concerto di musica Creative Commons. Allora, questa mattina abbiamo intervistato una ragazza, Martina, che è andata a seguire una lezione di Zagrebelsky, Gustavo Zagrebelsky, che si intitolata Idee sulle idee, quindi un nome già molto particolare. E facciamoci dire da Martina come è andata. Niente, c'è stato anche adesso un piccolo problemino, è il bello della diretta, come si suol dire. Sicuramente avremo occasione in questi due giorni anche di risentire Martina, soprattutto perché già dal titolo, purtroppo non sono riuscito a partecipare, ma dal titolo Idee sulle idee e poi conoscendo il personaggio, Zagrebelsky, mi sembra molto interessante. Sì, è stata sicuramente il degno inizio a livello contenutistico della Biennale, perché come tutti gli anni il mercoledì sera, o meglio il primo giorno che inizia alle 18, è un momento inaugurale istituzionale. Il primo anno venne Napolitano, il secondo anno Draghi e il terzo anno la Boldrini. Con Zagrebelsky siamo entrati nel contenuto e Zagrebelsky, di nuovo, per lui la democrazia stessa non è soltanto un metodo per la partecipazione, per la decisione, è sia un mezzo che un fine, e quindi è fondamentale, lo sottolinea nella maggior parte dei suoi testi, tra l'altro, l'importanza per la democrazia di tendere sempre al meglio per tutti, per il paese, senza prendere decisioni irrevocabili, senza escludere altre persone dal dettato costituzionale. È bello, particolarmente come si dice, ispirante si dice, perché sì, io sono ignorante, ma tu mi puoi sicuramente aiutare. Sì, particolarmente mi sarebbe davvero piaciuto partecipare. Adesso sì, sicuramente avrò occasione nei prossimi giorni, essendo qui, di partecipare a più incontri. Tra l'altro sul sito di Biennale Democrazia e sul sito di ACMOS stiamo caricando tutta una serie di video dedicati agli incontri. Quello di Zagrebelsky, Idee sulle idee, è uno dei clip che verranno caricati, se non stasera, domani mattina. Quindi chi l'avesse perso può andarlo a recuperare. Se vi è piaciuta, vi ha incuriosito questa idea, insomma, andatelo a recuperare e sicuramente sarete soddisfatti. Allora, io direi, lanciamo un brano che è quello di prima, Paul Clayson, Back in the Day. Dopodiché torniamo in diretta qui da Piazza Carignano con Radio Bawalla. Watching your shadow, there's not move away. Free your mind, see around. I look at the sky, the night is gone and the sun comes up. Smells like rosy skies, who wants to show his love? Tears are now in search of dreams that they have had. Open your window and look at me. You don't know what's going on. Why you get to worry? Everybody sing this song. And we're here to get so fun and get busy. Don't be lazy, baby. What do I wanna make you listen to the tempo of your body? Let me tell you the secret to be happy. You could be that girl that you wanted to be before. Breaking the day. Find those dreams we lost a month. So make me feel. Yeah, crazy babe, you don't know what's going on. Ok, e questo era Paul Cleason con Back in the Day, e invece noi siamo back in the van, nel van bianco, nel furgoncino bianco. L'X Media Van. Siamo qua dentro, chiusi, perché fuori ha iniziato una timida pioggerellina, quanto basta per scoraggiarci dal farlo fuori. E beh, certo, infatti, tutto certo. Materiale tecnologico che non vogliamo sicuramente sprecare. Esatto, e quindi ci siamo... ci è appena arrivato, quindi... Quindi lo teniamo dentro insieme a noi, al sicuro, chiusi dentro al van, sperando che non accendano il motore e partano con noi a bordo. Sarebbe divertente. Una radio itinerante? Sembrerebbe una cosa nuova. Stile film americano, tipo Interpol, che deve inseguire qualcuno che salta giù da un balcone dopo averlo... E facciamo la diretta dell'inseguimento. Esatto. Cosa facciamo? Adesso vi racconto di un altro progetto particolare che stamattina ha avuto la sua conclusione. Si chiama Dai una voce alla democrazia e parla di un'utopia tecnologica. Io oso dire l'utopia tecnologica per eccellenza, che è Wikipedia, un'enciclopedia digitale e collaborativa che ha toccato il milione di lemmi in italiano pochi mesi fa. Il centro Nexa, l'associazione di Iscola, il CSP, supportate dal Performing Media Lab e da ACMOS, sono entrati in alcuni licei, istituti tecnici di Torino e di Ivrea e hanno proposto a delle classi di riflettere sull'utopia, di scegliere alcune voci legate all'utopia e di modificarle su Wikipedia. Quindi un progetto molto interessante che integra la didattica tradizionale. Che ha coinvolto quindi proprio dei ragazzi giovani. Ha coinvolto delle prime, delle seconde, delle terze e delle quarte superiori, quindi tutta... un bell'arco insomma di persone. Tra l'altro siamo venuti ad Eporedia, siamo venuti a Ivrea con Gramsci e l'Olivetti. Sì, due istituti, un istituto tecnico e un liceo scientifico di Ivrea, quindi per chi non li conoscesse. L'Olivetti tra l'altro ha modificato proprio la voce Adriano Olivetti scrivendo, aggiungendo alla biografia di Olivetti la graphic novel di Marco Peroni e aggiungendo gli aspetti più legati all'utopia della fabbrica olivettiana, mentre il Gramsci ha lavorato sul concetto di democrazia diretta e ha modificato il tema dell'utopia stessa. Erano due classi. Certo. Comunque si sono dovuti impegnare, immagino abbiano dovuto lavorare particolarmente questi ragazzi. Sì. Tra l'altro volevo dire, ricordare che, come sanno già molti nostri ascoltatori, Wikipedia è particolarmente cara a Radio Bawalla per il semplice motivo che è una delle cose più Creative Commons che ci sia, in qualche maniera. Ah sì, non esiste file che si possa caricare con licenza SIAE, con la licenza, con il copyright tradizionale. Infatti le foto devono essere tutte con licenza Creative Commons, i contenuti anche. Non è possibile copi-incollare materiale protetto da copyright. Ed è anche questo un meta-obiettivo del laboratorio Fatti con i Ragazzi, perché non solo hanno fatto ricerca, non solo hanno imparato del codice informatico blando, ma hanno anche riflettuto su cosa si può e cosa non si può mettere, su qual è l'etica della condivisione della conoscenza e della proprietà della conoscenza. Certo, certo. E allora, beh, direi che è un percorso che è arrivato alla fine, ha portato queste belle modifiche, e sono molto contento, in particolare per quanto mi riguarda, che due scuole tra le altre, anche due scuole di Ivrea, possano aver partecipato a un progetto del genere. Sperando, se posso mettere proprio una punta quasi di pepe, sì, che anche il mio liceo, il liceo Botta, nel quale per ora, insomma, come ACMOS, come Libera, non siamo proprio riusciti a entrare bene nei meccanismi, sperando che anche loro entrino in una cosa del genere, perché innanzitutto è una grande opportunità e poi è un grandissimo stimolo. Ah beh, sicuramente, anche perché anche Biennale Democrazia, il nostro ruolo in Biennale Democrazia è una riflessione su questo argomento. La riflessione, i saperi non sono soltanto saperi nozionistici, contenutistici, ma anche esistenziali, l'imparare ad essere. E credo che il progetto Scooter, Libera Piemonte, offrano tutta una serie di strumenti che possano permettere ai ragazzi di crescere a 360 gradi, non soltanto come persone competenti a livello di nozioni, ma anche come cittadini. Certo, certo, sviluppando una serie di capacità in qualche maniera, e di voglia di esserci. Esatto. Voglia di metterci la firma. Esatto. Sporcarsi le mani col mondo. Esatto, proprio sporcarsi le mani. E scoprire come anche ragionare su come le cose cambiano. E a proposito di come le cose cambiano, ci sentiamo How Things Change di Jonathan Dimmel. The stars begin to fade, and I don't even notice the things I've chose are mistakes. Don't trust my heart, now I know this. Places I once called my home, now I'm filled with diseases. A life that lived to see in Rome is now settled in Kansas. ci ripete anche Jonathan Dimmel, How Things Change, le cose cambiano anche stando qui non solo a Biennale Democrazia, ma in qualche maniera anche nel nostro performing X Media Van. Esatto, nel nostro X Media Van bianco in Piazza Carignano in diretta con Radio Abawal. Vorremmo farvelo vedere, ve lo descriverò a parole. Immaginatevi gli A-Team, ecco, noi siamo come gli A-Team, diamo tutto, connessione, audio, video e siamo però in versione nerd, diciamo. In versione nerd, immaginatevi un incrocio tra Big Bang Theory e l'A-Team. Ma sicuramente vi abbiamo postato e vi posteremo foto attraverso tutti i nostri canali. Vi ricordiamo la pagina Facebook, allora innanzitutto di Radio Abawal e il suo Twitter, quindi @ Radio Abawal, e poi c'è la pagina di Biennale Democrazia, Biennale Democrazia Giovani Scuole, e la pagina Facebook di Acmos, che è Acmos, molto facile da trovare infatti. Ma le dirette non si fermeranno oggi, ci saranno anche domani e poi sabato, ma non è tutto, c'è tantissime cose in questi giorni in piazza. Sì, io vi racconto brevemente cosa succederà in piazza. Ci sono tre appuntamenti giornalieri, dalle 3:30 alle 4 ci saranno delle letture sonorizzate legate all'utopia da parte di lettori di alcuni attori di Acmos, dalle 5:30 alle 6 delle sezioni di danza di diverso tipo, danza moderna, anche danza teatro, e poi dalle 7:30 alle 8:30 il concerto. Non precipitatevi qua per stasera, anche voi dei Ivrea che immagino starete per partire per venire al concerto. Per questa sera purtroppo a causa della pioggia non potremo ascoltare i Frumento Resa, che però si rifaranno domenica sera, riuscendo. Quindi riusciremo comunque a sentirli dal vivo. Li sentiremo dal vivo. Perfetto. Invece domani avremo i Quindi, mentre sabato avremo il gruppo Indianizer. Indianizer. Un po' particolare, molto affascinante, dalle tonalità elettroniche. Sono molto in gamba, ragazzi. Allora ce lo sentiremo molto volentieri sabato sera, giusto? Sabato sera, sì. Perfetto. E invece, per chi volesse passarci a trovare nelle serate a tarda notte, perché anche noi facciamo un mini campus quest'anno, potete venire in via Loncavallo 27, Casa Acmos, che è la sede dei giovani che vogliono seguire la democrazia, la Biennale Democrazia, non soltanto negli interventi, non soltanto durante gli incontri, ma anche nei momenti più vuoti di svacco tutti insieme. Esatto, perché Casa Acmos, per chi non lo sapesse, è proprio uno spazio dedicato ai giovani, giusto? Ah sì, decisamente, una comunità di riflessione sui propri stili di vita, e quindi niente di meglio che mettere insieme gli stili di vita, la democrazia e l'utopia, e stare insieme divertendosi tra giovani. È certo. Allora ripetiamo, per chi lo volesse, in via Leoncavallo. Via Leoncavallo 27 c'è il campus, il mini campus rispetto a quelli degli anni scorsi, dei giovani di Biennale Democrazia. E allora passeremo sicuramente. Allora io direi che la trasmissione volge quasi alla fine, ma ci sentiamo ancora qualche brano. Il primo ce lo sentiamo adesso è Brad Sachs con Model Home. Mom and daddy aren't into me. Go get a job and go get out of my life. Cause the scene in the therapy, it'd be best if you just open your eyes. Only one I've replaced to waste my time and everyone to leave me alone. Maybe they'll regret what they said when they see me on a TV show. I don't wanna be good, I just wanna be good. Looking up, coming straight out of a model home. I feel the good life in my heart, I know it's out there. I don't wanna get up, I don't wanna keep my feet on the ground. I don't wanna behave, I don't wanna do the things I'm allowed. I don't wanna be a resident of any backwater on the wall no more. I don't wanna be saved, I don't wanna do nothing at all. Oh yeah, I don't wanna be good, I just wanna be good. Looking up, coming straight out of a model home. that's in my heart, I know it's out there. Got the features, I got the bleach, I'm gonna show you how it's supposed to be. You got the features, I got the bleach, I'm gonna show you how it's supposed to be. You got the features, I got the bleach, I'm gonna show you how it's supposed to be. I got the features, I got the bleach, I'm gonna show you how it's supposed to be, yeah. Oh E questo era Brad Sachs con Model Home e siamo ritornati dall'X Media Van qui nella nostra casa provvisoria che è Piazza Carignano a Torino e siamo ritornati, siamo sempre io, i due Marco, sì. E Eros. Detto Scoi, cioè detto perché Scoi, quello, lo conoscono solo il papà e la mamma, sì, come okay. Nome, sì. Ah, ok, allora sì, Scoi, diciamo Scoi. Sì, ma io cerco di dirlo il mio nome in realtà, però poi qualcuno mi corregge sempre e quindi finisce sempre così. Perché poi la gente non si gira se lo chiami Eros, se questo è il fatto. Ma non è vero. Ah, ok, allora adesso che lo sappiamo sarai Scoi per tutti. Perfetto. Ottimo, era quello che volevi. Sì, sì, questo lo vogliamo mandare anche in TV così è più ufficiale. Okay, sì. Chiediamo a Sky TG. Facciamo anche una foto per identificarti. Okay. Allora, io direi che questa giornata di Biennale Democrazia in realtà poi si concluderà questa sera, ma almeno per quanto ci riguarda sta volgendo un pochino al termine con la nostra diretta. Sì, sì, la nostra diretta si sta per concludere. Io vi rilancio una serie di appuntamenti, diciamo, sponsorizzati da noi. In generale, se volete consultare il programma potete andare su biennaledemocrazia.it/eventi. Noi vi consigliamo alcuni appuntamenti secondo noi particolarmente interessanti. Domani ci sarà lo spettacolo Emil Utopia 250, un documentario live sull'Emilio di Rousseau. Documentario live, pièce teatrale scritta anche a partire dalle utopie dell'educazione elaborate dai ragazzi delle scuole in cui abbiamo fatto alcuni laboratori di preparazione biennale. Poi in contemporanea, quindi dovrete scegliere, sarà una scelta di Sofì, ci sarà l'appuntamento Poveri di Relazioni con Alberto Salza. Alberto Salza che ha deciso di venire lui direttamente in alcune classi per costruire l'appuntamento di venerdì mattina. La sera invece ci sarà uno spettacolo Ferite a morte, scritto e diretto da Serena Dandini, uno spettacolo sulla violenza sulle donne. Insomma, il programma è molto ricco. Noi vi abbiamo consigliato qualcosa, sì. Ma vi rimandiamo per l'appunto al sito, perché appunto il menù è veramente ricco. Dovete soltanto scegliere e venire, sporcarvi le mani, come dicevamo prima. Sì, sì, sì, sì. E quando avrete finito tutto, direi che potete ripassare anche da noi. Noi la puntata veramente volge a termine, ma vi rimandiamo a domani per l'appunto a tutti gli appuntamenti, ma anche e soprattutto alla diretta che noi faremo anche domani e anche poi sabato, sempre da Piazza Carignano, sempre dall'X Media Van. Magari se domani saremo un pochino più fortunati, avremo il sole. Avremo il sole e riusciremo a farla, chi lo sa, fuori. Speriamo, speriamo. Ma qua è carino e accogliente. Sì, in effetti sì. Sì, in effetti sì, vi manderemo le foto per farvi vedere le nostre condizioni accoglienti. Certo. Per cui allora io direi che un saluto a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata, a domani. Buona serata, vi saluto anche il nostro tecnico Marco. Ciao ciao. E allora a domani e ci sentiamo l'ultima canzone, sono i Falling Blind con The Intent. pushing too high. Not seen, doing Jay and I. You can't be fake, but it blows up in your face. Finally get the chance to say, see ya, with the kind that we are. Take caution, we all went far. I can tell you wanted to leave me, but you say, come back. Cause it's no use. I can tell you what.